Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino. Ma di chi è la... La pressione mediatica, io sono una cittadina comune, sono una cittadina prestata alla politica. La pressione mediatica che tutto questo ha provocato intorno alla mia persona, non la reggo. E tutto il giorno penso a te. Questa vicenda della Bedori, che idea si è fatta? Non c'è nessuna vicenda a Bedori. Le accuse non sul programma, ma sulla fisicità, obesa, incapace di comunicare. Beh, è quello che ha detto lei. Io non l'ho sentita, non so nulla. Non è che dalla Casaleggio Associati vogliono solo candidati belli e capaci di comunicare. Quante storie vi fate? Dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Il ritiro della candidata 5 Stelle. L'ho vista, non c'è la poveretta. E lì l'aveva scelto il popolo della rete, come sembra un popolino. 150 click, una roba. Popoluccio. Qui secondo me Grillo e Casaleggio le hanno detto: bella mia, spostati perché abbiamo bisogno di altre. Ah, ragazzi, oggi prendete qualsiasi giornale. Non è un paese per donne, la politica misogina, la Bedori che dice mi hanno detto grassa e brutta, brutta e grassa, obesa anche. Per la verità dice che anche in uno spettacolo Beppe Grillo l'ha definita così, ma questa casalinga robustella. E poi c'è Bertolaso, io guardate... Mi sono reso conto subito. Bertolaso che sarà il nostro ospite alle 8.40 del mattino, tra due ore. 8.40, Guido Bertolaso. Bertolaso, io mi sono reso conto subito, domenica sera stavo guardando la 7, Tommaso Labate, David Parenzo, e a un certo punto quando compare frantuma decine di anni di battaglie femminili per la parità di genere con la frase, no, la Meloni deve fare la mamma, ce l'abbiamo la frase. Oggi dice Bertolaso, ma io voglio bene a Giorgia, le ho parlato come se fosse mia moglie, volevo proteggerla e niente, aggrava la situazione. Ma perché proteggerla? Mica è una malata se aspetta un bimbo, no? Una bimba. Meloni potrebbe fare il vice sindaco. No, la Meloni deve fare la mamma, mi pare che sia la cosa più bella e che le possa capitare ad una donna nella vita. Ah, mamma mia, vabbè, mamma mia appunto. Vabbè, tutto materiale per Mariona Dinolfi, voglio dire, ma fanno la campagna elettorale, voglio la mamma, voglio la mamma, voglio Mario la mamma, eccoli qua, eccolo qua. Buongiorno Marione, dai. Che ha stato un viso che non ha paura, diciamo. Ecco. No, c'è Mariona Dinolfi. Di bastonate per la mia vita l'ho presa. Un pochino di bastonate, sì. Bisogna essere, diciamo, capaci di reggere. Resilienti. Questa settimana mi sono beccato anche i manifesti da modello di Dolce Gabbana a Torino. Sì. Dinolfi, ti Dinolfi, sei arrabbiato in una maniera. Guarda, intanto Mario, fammi salutare subito il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, eccolo qua. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vado al Massimo, è la tua sigla, ovviamente. Vabbè. Si sa di Vasco Rossi. Oh, c'è Mario Dinolfi arrabbiatissimo. Massimo, secondo non te... deve. Ma non dai, deve. Gli hanno fatto. È come quando gli fanno le caricature alla gente, devono essere contenti. Vuol dire che sono famosi, deve essere contento. Marione. Poi non era male quel manifesto, posso dire, io l'ho visto. Era artisticamente aveva un suo perché artistico. Che dici Mario? Aveva un... Dice, c'è una sola questione, no? L'ha posta bene la Bedori, ma perché l'unica categoria che deve sottostare al linciaggio è quella dei ciccioni. Ma vi spiegate perché? Ricordiamo, affondiamo un po' a 2 anni fa, quando tu hai fatto un gesto coraggioso qui a Radio 24, non ti chiedo di farlo adesso perché ti sotterrerebbero, di dare il tuo cellulare in diretta. Vi ricordate, esatto, che per un anno Mario Adinolfi diceva telefonatemi al 334 qui in diretta Radio 24 e la gente chiamava e che succedeva? Pronto? E Mario Adinolfi, sì, agiccione di merda! Ecco, questo è Massimo De Manzoni, questa era la telefonata media. Però questo, no, vabbè, così è un linciaggio, però devo dire che non è vero che l'unica categoria è quella dei ciccioni, perché Brunetta ha passato le sue, per esempio, lì la categoria era diversa. È vero. È un po' un vizio quello di prendersela col lato fisico del Ma sì, però voglio dire, adesso non vorrei convocare subito Vincino, ma l'Andreotti Gobbo, ce lo ricordiamo tutti. Andreotti è un uomo di potere, attenzione, è una cosa diversa. Lampedori, francamente, che debba essere adesso non più candidato sindaco di Milano perché le hanno detto Pisa, francamente no. Vabbè, adesso è non un è po' che... fastidioso. Adesso non lo sappiamo. Che il tuo leader politico va lì e ti definisce casalinga Rostella cercando di sminuirti in questa maniera. Mi chiedo che questa cosa si possa fare se solo coi ciccioni, altra categoria sarebbe stata, Massimo, è una questione aperta. Ma no, ha ragione, siamo stati i primi, peraltro noi di Libero, a denunciare il fatto che per i suoi e per i suoi vertici del suo partito non era abbastanza velina. È la conseguenza del tipo di politica e di campagne elettorali che stiamo facendo, molto basate appunto sulla presenza televisiva, sull'immagine. Però scusate, io voglio dire una cosa un poco controcorrente, ma avrà anche un suo impatto la fisicità? Cioè, secondo me ci sono persone, Massimo, non so, tu sei d'accordo, Mario, te lo chiedo, persone che votano, che voteranno, persone magari indecise, che non seguono la politica, che votano anche per l'immagine. Perché, scusa, Virginia Raggi si dice anche, guardate che bella, no? Berlusconi è telegenica, no? Perché non conta questa cosa? È quello che sto dicendo, in un mondo così mediatizzato è certo che voti anche quello. Allora, e quindi cioè, c'è anche quel problema lì, che poi sia giusto questo, è tutto un altro discorso, è tutto un altro capitolo. Io personalmente sarei molto più contento di essere governato da una persona capace che da una sicuramente, persona, ma sto che dicendo una che persona carina. C'è una percentuale, non so. Ma capaci ce ne sono pochi in giro, evidentemente. Allora ci limitiamo all'involucro. Una percentuale di chi sceglie perché non segue la politica, alla fine dice guarda che bella questa qua, guarda che bello questo qui, mi piace. E alla fine sceglie così. Mario, certo. Non è che... Ma che questa casa è un fatto. Questo sia un bene e un altro. Certo, questo siamo d'accordo. No, è un male. Stiamo cercando male. Di ragionare se è un bene o è un male. Cioè, io penso che una competizione politica contino le proposte che fai per la città, le proposte che fai politicamente e la persona che sei dal punto di vista, diciamo, ontologico, mi verrebbe da dire. Quello che sei. È un po', se conta l'involucro, diciamo, Miss Italia, non facciamo le elezioni. Che è dici, un po' un nostro difetto, perché se pensiamo alla Merkel, insomma, se pensiamo alla Merkel, non vorremmo mai ritirare fuori il se pensiamo alla Merkel, sì, come viene chiamata, come venne chiamata. Ma chi di noi non vorrebbe essere governato da una Merkel italiana? Ecco. Non penso che nessuno si ricordi di Helmut Kohl perché era obeso. A proposito di contenuti, gli americani hanno fatto fuori Christie, che era forse il candidato migliore, l'hanno fatto fuori per questo motivo, se vi ricordate. Ecco, infatti, Winston Churchill non era, diciamo così, uno statista minorato perché era pesato. No, vabbè, in difesa dei ciccioni, ma mi sembra giusto. A proposito di contenuti, Mario Adinolfi, porca caccia la miseria, adesso tu te la vedi con i miei figli, oggi ti faccio chiamare da Mattia. Da Kung Fu Panda. Ti faccio chiamare da Mattia. Sentilo qua. si allena duramente. Ma pure contro Kung Fu Panda ce l'hai, contro Po. Te la sei la presa politica, con Po, dicendo che... La polemica su Kung Fu Panda non l'ho fatta io. La polemica se tu fai l'hai cavalcata, che sarebbe se sta tu polemica? Se fai la rassegna stampa, avrai letto nella tua rassegna stampa una serie infinita di articoli che sì, lanciavano Kung Fu Panda 3 con una sola titolazione. Ora Po ha due papà. A due papà. È stata la titolazione, ecco, grave, di tutti, grave problema. Di ma non è grave problema. Certo, se lo chiedi a me, io ti dico, io un messaggio del genere a centinaia di milioni di bambini nel mondo andando a vedere, non glielo do, non è un messaggio casuale. Quindi dimmelo, allora fammi capire. Fammi capire. Allora, se io devo portare mia figlia Angelica che ha 10 anni e mio figlio Mattia che ne ha 7 e mezzo, che devo fare? Li devo preparare prima, li devo spiegare, guardate che vedrete delle cose, dei messaggi da Kung Fu Panda. Tu, Alessandro, fai quello che gli che ti pare. No, però, vabbè, dammi Disney, un consiglio da della Disney, mi fa il lancio planetario di questo di questo cartone animato dicendo la sua caratteristica è che finalmente Po ha due papà. A te io non piace, che ho una opinione diversa, dico alla Disney, che è molto più potente da tutti i punti di vista, che a me questo tipo di messaggio non piace. Non piace. Poi se questo diventa l'ennesima questione di Fritz e di Lazzo, avrò il diritto di Fritz e di Lazzo, Massimo, che devo fare? Io non l'ho ancora visto con i miei figli, che posso fare? Lo puoi vedere, esce il 17. Ah, ecco, appunto. Però il lancio fatto dalla Disney, ecco. Vedi come sono sul pezzo, Massimo, vedi, non l'ho ancora visto, ero già in difetto con i miei figli. Che faccio? Però io sto con la di noci. Ah, stai con attenzione. Non se ne può più. Libero ostacolo di Orfi. Crociata contro Kung Fu Panda. Il 3% della popolazione è diventato maggioranza assoluta. E che tutto il mondo dell'arte, della comunicazione, persino dei cartoni animati, ruoti intorno a due papà. Alle coppie gay, che sono una minoranza assoluta. Allora, che facciamo? Quindi su Libero una bella recensione al film di Kung Fu Panda non la facciamo. No, però su Libero segnaliamo una cosa che non segnala nessun altro oggi, di cui vorrei accennare qui, sì, visto che siamo perfettamente in tema. Torno un passo indietro sul femminismo e sul sessismo, meglio dire. Allora, l'avete visto come il simbolo dei No Triv? Il simbolo della campagna No Triv è Trivella tua sorella, cioè una donna carponi con dietro una... una donna a 90, dillo, carponi a 90, insomma, è questo... Una donna carponi con dietro la torre, diciamo così, delle estrazioni petrolifere. È inequivocabile come... Abbastanza. È una volgarità assoluta. Però parliamo solo di Bertolaso. Ecco, io vorrei parlare anche di questo. Ma tra l'altro l'ha fatto un'agenzia pubblicitaria. È politicamente corretto, l'ha fatto un'agenzia pubblicitaria che credo poi l'abbia ritirata. Cioè si sono già un po' pentiti. Non lo so, non ho sentito grande dibattito su questo. Siccome veniva da certi ambienti che sono notoriamente e per definizione politicamente corretti, nessuno ha detto niente. È di una volgarità che io raramente ho visto una cosa del genere. Effettivamente. Vabbè, quindi abbiamo sistemato un po'. Quando è che esce, Mario? Il 17, dopo domani, preparati. Tanto dovrei andare a vedere, è uno di quei film obbligatori. Ma te lo chiedo, ti giuro, non c'è nessun Fritz e Lazzo. Te lo chiedo seriamente, devo dire a mio figlio, ai miei figli qualcosa prima di... o dopo, prima? Soltanto tu gli dici altre cose rispetto a quelle che dico io ai miei no, figli. No, chiedo tu. Allora, se fossero i tuoi. Se andassi a vedere con Kung Fu Panda 3, non credo che andrò, detto un grande franchista, all'idea che viene proposta da quel film, opporrei la mia visione e la comunicherei alla mia figlia. Ma qual è l'idea? Cioè, ci sono due papà perché non so, muore la mamma? I due papà in realtà muore la mamma, una è la oca, quella che è nota, e poi si scopre che c'è un papà, diciamo ovviamente biologico. Questi due papà vengono proposti nella loro dialettica, ovviamente viene fatto in maniera intelligente. Alla Disney sono bravissimi, mica un film, diciamo, no? È ovviamente se muore la mamma la cresce da qualcun quello altro, che io pongo, no? Ovviamente non è la trama di Kung Fu Panda, quello che io pongo è il lancio di Kung Fu Panda. Ti ripeto, leggi qualsiasi articolo, ti posso continuare una sigla stampa infinita, perché viene fatto cavalcano un po' il momento. Allora lo usano come strumento di marketing. poiché lo usano questo strumento di marketing, il marketing è fatto sui nostri figli di 5 anni, mia figlia di 5 anni, io posso da papà pormi il problema di questo tipo di... Ecco, qui la domanda, la domanda è questa, tu pensi che non andrai a vederlo, quindi tua figlia di 5 anni non la porti? Io mia figlia di 5 anni non la porto, se la porto ci parlo prima. Vedi, Massimo, per esempio, ha perso già uno spettatore, un piccolo spettatore. Però perda molto, l'ho detto solo io, speriamo che possa essere questo Golia ogni tanto di rastosarsi e dare il Davide che ti rastosarsi e tutto butta giù. Ragazzi, questi non sono mica dei poverelli che lo fanno per la Disney, ma fanno un film, ma dai, su, fanno un film, vabbè. Comunque, allora... Film, lasciandolo così, io ho il città a dire... Di non andare a vederlo, e questo non... certo, se non vuoi andare a vederlo, non portare tua figlia, non portarla, mica sei obbligato. Allora, dobbiamo andare al traffico, invece, poi rientriamo, hai ancora tante cose da raccontare. E, attenzione, perché Berlusconi ha una carta nuova, una carta segreta per Benevento, attenzione, attenzione, si parla di candidati sindaci tra poco. Omina, e sono Fiorentino, questi qui di Radio 24 sono fissati sul traffico, domandate una volta sì e una volta sì. 5 Stelle come il più becero partito di Forza Italia che si basa solo sull'apparenza rifiuta una candidata perché non è bella, e chi lo decide? Casaleggio, che penso che sia uno dei più brutti uomini che sia apparso in televisione in quest'ultimo ventennio. Alessandro, com'è che sta diventando così cretino? Ma sta diventando in una maniera che non lo so come vai a finire. Ragazzi, perché dite primarie del centrodestra? Era una semplice consultazione. Le primarie le fa il PD e abbiamo visto anche come. Quando ti piace a dire le buttanate, Milan! Milan, sono Fiorentino, stai a sentire. Ma lo sai se più bene dalle mie parti, dopo mangiato, ma neanche il vocabolario Zingarelli ce la fa a mettere in ordine tutte le parole, roba da non credere, te lo dico io, ciao. Vabbè, bisognerà prima o poi accettare questo invito del Fiorentino. Allora siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e con Mario Dinolfi, che non ho ancora detto, ma lo ribadiamo, candidato sindaco a Roma con il popolo della famiglia, PDF. Ce l'avete il simbolo, PDF? Ah, bellissimo simbolo, sì, come no. Blu, con la scritta del popolo della famiglia, mamma e papà che tengono in mano i due figli, e no gender nelle scuole scritte in campo. E no? Quindi, no gender? No gender nelle scuole. Ma no, non ci sta tutta sta roba nel simbolo. Tutte queste scritte. Anche molto bello, devo dire, dal punto di vista grafico. Molto bello. Tu l'hai visto, Massimo, questo? No, no, confesso che non l'ho visto. Confesso di no. E confessi che lo voterai? Se fossi a Roma. No, io non voto a Roma, per cui... Vabbè, ma ci sarà anche... Dove voti? A Verona? Dove voti tu, Massimo? No, ti veniamo a scovare. Io voto a Milano, ma... Io voto a Milano. Ci sarà anche a Milano, Mario? Siamo a Milano, siamo alleati con Nicolò Mardegan, abbiamo la lista con Nicolò. Quindi non scampi a Milano. Massimo, ti vediamo a beccare. Così lo vedrò, così. Almeno lo vedo. Almeno lo vedo, non si sa se lo vota. Diciamo, fai così, voti se... No, ne dubito. Se arriva al ballottaggio. Vabbè, se niente, neanche come dire... Anch'io, dai, se la Juve arriva in finale, tifo Juve quest'anno, ecco. Faccio questa cosa. Mi dovevi chiamare giovedì, così eravamo sicuri di passare il turno. E infatti ho fatto apposta di non chiamarti. Sai che, Massimo, io quando lo chiamo sempre dopo le partite della Juve, per pigliarlo per il culo un po'. E tutte le volte che lo chiamo da 2 anni la Juve vince. E quindi stavolta preventivamente l'ho chiamato il martedì. Anzi, no, infatti stavo per dire, ma non lo chiami mai allora. Perché ultimamente... No, lo chiamo sempre, stavolta la Juve, e tutte le volte viene qui a farmi il verso. Vabbè. No, però vorrei capire questa cosa. Nel centrodestra, Massimo, che sta succedendo? Cioè, la verità è che Salvini e Meloni vogliono fare le scarpe a Berlusconi. Questa è detta in maniera brutale. Un po' la lettura sembra questa. Cioè, che Roma ormai, vista la candidatura già di Marchini, vista la candidatura di Storace, visti tutti, si è data un po' per persa, e che sulla pelle della città un pochettino, se vogliamo, o comunque sulla pelle degli elettori di centrodestra della città, si stia giocando una partita nazionale in cui si cerca di far fare una brutta figura a Berlusconi, che si è molto esposto con Bertolaso, per segnare un po' una sconfitta che lo induca al passo indietro. Questa è la sensazione. Sicuramente questo è il gioco che sta conducendo Salvini. Questo. Apparentemente anche la Meloni con qualche rischio in più, devo dire, perché lei gioca in casa, mentre Salvini di Roma se ne può abbastanza fregare. La Meloni rischia abbastanza. Dal mio modo di vedere rischia un po' di più in proprio. Certo, quello che rischia di più in un gioco così, se gli rimane il cerino in mano, è Berlusconi che però la carta segreta, ragazzi, io quando l'ho letto sulla stampa non ci credevo. Berlusconi per Benevento rispolvera Mastella, signore e signori, forse candidato sindaco, caro Marione, che ti pare? La nuova politica che avanza. Con il guaio di Roma che c'ha per le mani, insomma, non so se c'è tanto tempo per curare la questione Benevento. Roma c'è una questione molto seria per Berlusconi, rischia di far scattare la fotografia della sua fine politica, quindi io per Bertolaso terrei duro, perché altrimenti lui c'è però già Bertolaso, guarda, che pare che ha detto: se si candida alla fine la Meloni mi faccio da parte, cioè che fa, se no si spacca. No, non ha detto proprio così. Credo che possa aver detto così. Se si candida la Meloni e riunisce tutto il centrodestra mi faccio da parte, che è un po' come sentiamo dicevi tu, se la Juve va in finale sentiamolo però. Bertolaso, io ho già detto e lo ripeto, perché io sono una persona coerente, se la Giorgia Meloni si candida in nome e per conto di tutta la coalizione centrodestra, ovviamente io ti darò le conclusioni. Vuol dire che se si candida, ma Berlusconi dice no, il mio candidato rimani tu, lui tiene duro. Non solo. E si spaccano. Ma c'è Storace e c'è Marchini anche. Questo. Ho capito. Però che vuol dire? Dai, cioè, prende, cioè, un centrodestra diviso che si presenta con la Meloni, con Marchini, con Storace, con Bertolaso, si frazionano tutti e via. Ma tu, Marione, che fai? Correte da soli o vi apparentate? Noi da soli siamo in tutta Italia. Da soli, ma chi vi vuole? Da soli. Questa mi è venuta così. Ma dai, la battuta! Mamma mia! Quando la par condicio finalmente mi difenderà. La par condicio, ma ti invito tutte le settimane. Per me la par condicio è che io ti posso invitare un giorno sì e un giorno sì. Non c'è problema, lo sai. Quindi, fai la campagna elettorale anche ai giovani candidati del popolo, della famiglia sindaci. Sì, dovrei dirti che esporsi al mattonate, perché in certe città esporsi su queste posizioni esporsi sulle mattonate. Vabbè, che però su WhatsApp ci dicono che PDF potrebbe essere povero o deficiente, ma anche in Veneto, e qui abbiamo un veronese, PDF piende figa, questo un ascoltatore, io non lo so, lo so, te la metto. Abbiamo molte candidate donne, a Torino è tutta una lista fatta da donne. Vabbè. Comunque Brunetta, non vi posso lasciare senza il Brunetta del giorno, Brunetta che ieri diceva, lei li ha visti, tra l'altro c'è una giornalista del Tempo, che dice di avere votato 22 volte alle gazze barie per Bertolaso, mica 4-5, 22 massimo. Alla fine è finita la giornata, non ce l'ha fatta più a votare per la 23esima. Diciamo che i controlli non erano stringenti, ma anche le primarie del PD, in tutte queste cose organizzate in questo modo un po' spontaneistico. 22 è abbastanza. Comunque, Brunetta, eccolo 22, qua. Sir. TG3? TG3, a sinistra. Noi non ci candidiamo. Ma fate le stesse domande al povero candidato della sinistra, ai candidati della sinistra. Quindi secondo lei il centrodestra non imploderà? E sta implodendo la sinistra in questo momento, e su questo c'è una certezza. Dopo Mafia Capitale sta implodendo la sinistra. Adesso ricominceremo a ricordare Mafia Capitale. Senta, anche Alemanno però. Mafia Capitale. Andrete avanti così, quindi? Assolutamente, Mafia Capitale. Gli unici condannati sono del PD. Ci riprova il TG3, ma Mafia Capitale. Ma scusi, ma lei come sta? Mafia Capitale. Vabbè, Marione, devi fare un pronostico. Attenzione, basta la musica. Pronostico: Bayern-Juventus domani allo stadio di Monaco di Baviera. 2-1 Juventus.